Letture di Radio 24. Che succede quando si smarrisce l'ufficio oggetti smarriti? Da quando 2 anni fa l'ufficio in questione è stato trasferito dalla stazione Termini di Roma alla periferia della città, recuperare un oggetto dimenticato sul treno è diventato un'odissea. Dal 13 giugno 2009, da quando l'ufficio oggetti smarriti della stazione Termini è stato chiuso, chi trova una valigia oppure ombrelli, chiavi, occhiali, portafogli in un vagone ha 2 opzioni. Consegnarla alle forze dell'ordine oppure portarla al civico 191 della circonvallazione ostiense. A quell'indirizzo si trova il reparto oggetti rinvenuti del Comune di Roma, gestito dalla Polizia Municipale. Ma da 2 anni tra ombrelli, chiavi, occhiali, portafogli, stampelle, un POS per pagare con bancomat e carte di credito, compresi un generatore di corrente da campeggio e una sacca da golf con molte mazze, per un totale di 6-8 mila reperti ogni 12 mesi, nessun oggetto arriva dal principale scalo ferroviario romano. La notizia, segnalata dal lettore AP, ha fatto scattare un'inevitabile quanto imbarazzante verifica. Da anni non ci portano nulla dalla stazione Termini, conferma Paolo D'Angella, funzionario dei vigili urbani della capitale, che da novembre 2010 è il responsabile dell'ufficio oggetti rinvenuti del Campidoglio. L'ultimo oggetto consegnato, secondo D'Angella, è una valigia arrivata nel giugno del 2009 dalla stazione FS di Viterbo. Era di un passeggero partito da Roma. Sarà un caso? Non si sa. Di certo però, chi trova un oggetto, se non lo affida a polizia, carabinieri e finanza, che poi lo trasferiscono nell'ufficio comunale, dovrebbe portarlo a sue spese, magari in autobus o in macchina, da Termini alla circonvallazione ostiense, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì dalle 8.30 alle 17, percorrendo 6 km e 200 metri. Sarà un caso, ma questa seconda opzione, a giudicare dai numeri, assomiglia a una chimera. Anzi, è un'utopia vera e propria, salvo miracoli. E così a ripulire i convogli ci pensa l'esercito dei cercatori d'oro, i disperati che entrano in azione quando i viaggiatori scendono dalle carrozze. Il discorso, ovviamente, vale per la più importante stazione della capitale, ma anche per tutti gli altri snodi ferroviari, grandi e piccoli, in Italia. Ma molti ritrovano i documenti rubati che vengono lasciati nelle cassette delle poste. Nel 2009 il Corriere della Sera aveva denunciato il fatto che con un sistema così congeniato, con la chiusura dell'ufficio oggetti smarriti in tutte le stazioni ferroviarie, sarebbe stato praticamente quasi impossibile ritrovare borse, valigie o altro. A distanza di 2 anni, purtroppo, i timori si rivelano fondati. A volte, per fortuna, la multimedialità aiuta. Sul sito www.comune.roma.it basta cercare oggetti smarriti e si trova subito il link che offre addirittura l'elenco dei reperti classificati quest'anno. Il 40% di quello che ci consegnano torna ai legittimi proprietari, precisa Angelo Giuliani, comandante dei Vigili Urbani di Roma, grazie al meticoloso lavoro dei miei agenti. Chi va a ritirare l'oggetto smarrito, però, deve pagare 4 euro per i diritti di custodia. E entro dicembre si sta organizzando, con la collaborazione dell'Istituto Aste Giudiziarie, la vendita dei reperti abbandonati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Di Frischia, L'ufficio oggetti smarriti? Scomparso, dal Corriere della Sera del 24 giugno. Quasi ogni giorno, dalle 5 alle 7 di mattina, Davide Cervellin fa una lunga passeggiata in compagnia di Roy, il fedele Labrador che gli fa da guida. Per Davide, presidente del Centro Europeo per l'Autonomia delle Persone Disabili, è un'occasione sia per entrare in contatto con la natura che per riflettere sulla realtà del nostro paese e sulle sue storture. Tira, Roy! Il gatto rossiccio sul muretto dall'altra parte della strada pare quasi gli faccia maramao, e io devo usare non poca forza per costringerlo a procedere diritto sul marciapiede. Lui è bravo e la distrazione dura poco. Peccato che altre cose durino invece all'infinito. Nella nostra pubblica amministrazione ci sono degli uffici, delle competenze, che sono veramente un pugno nello stomaco. Innanzitutto perché con la loro esistenza illudono di una qualche soluzione, della possibilità di alleviare dei dolori, delle pene, e invece, proprio per la loro esistenza, ingigantiscono la sofferenza e danno il senso della costosa e gravosa inutilità della loro presenza. Queste situazioni si annidano un po' dappertutto, nelle istituzioni comunali, provinciali e regionali, ma laddove abbondano è nelle ASL o USL.